ingo yangana tona jina ogo bana gana bota ona moringo aya ogo ikamba makona kosenga zambe abatela bago pe bakoma bato aya ogo moringo yangana tona jina ogo bana gana bota ona moringo aya ogo Ikambo makona kosinga zambe abatela bago pe bakoma bato aya ogo Antona jina bagalika motema basato moke ya pandede Bolingo aya ogo Ikambo makona kosinga zambe abatela bago pe bakoma bato aya ogo Okira parado parado ogo ogo Nalingi antona libala ogo Koboya gate ono kina komiboma namabanzo Okira parado parado ogo ogo Naligi jina nalibala ogo Koboya gate ono kina komiboma namabanzo Boyangate onokina komiboma na babanzo